Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questo è un momento dal punto di vista internazionale delicato. Sicuramente impatterà sul commercio mondiale il coronavirus. Questo fenomeno, questa epidemia impatterà sugli scambi commerciali. L'Italia negli ultimi anni aveva investito, non solo gli ultimi governi ma anche quelli precedenti avevano investito negli scambi verso est. È chiaro ed evidente che adesso si apre una fase in cui noi come governo dobbiamo dare il massimo sostegno alle imprese per affrontare questo momento di difficoltà. Momento di difficoltà, sì, in effetti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, secondo quanto avete sentito ha detto il ministro degli esteri Di Maio a proposito dell'impatto che per il momento, per quanto riguarda il coronavirus nel nostro paese, è soprattutto economico. E quindi già ieri il governo, già nei giorni scorsi in realtà, aveva detto dobbiamo presto mettere in campo delle misure per aiutare le imprese in questo senso. Torneremo comunque sul coronavirus, in particolare anche sugli aspetti, soprattutto sugli aspetti medici e sull'effettivo anche tasso di mortalità che ha calcolato un professore dell'Università La Sapienza di Roma. Poi ci sono delle importantissime novità sulla strage di Bologna del 1980. Pare che dietro di nuovo spunti il cosiddetto venerabile Licio Gelli, capo della loggia P2. E poi la politica italiana, naturalmente, che non ci lascia mai senza temi, naturalmente il nodo in particolare della prescrizione. Poi una vigilia importante perché domani il Senato dovrà votare per decidere se autorizzare o meno il processo al leader della Lega Salvini sul caso, ricordate naturalmente, della nave Gregoretti. Tantissimi temi, quindi anche oggi, se li volete commentare, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, lì potete scriverli oppure li inviate tramite SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Il Twitter durante il giorno, se volete, è Roby con la Y, linea bassa Giordano. Allacciate le cinture che partiamo. Coronavirus da oggi ha ufficialmente un nome: Covid-19. Servono circa 18 mesi per il primo vaccino, spiega l'OMS e sottolinea: è una minaccia peggiore del terrorismo. Prescrizione, nuovo scontro tra Renzi e il resto del governo, no all'emendamento sul lodo Annibali. La strage di Bologna, a 40 anni dall'attentato più sanguinario della storia della Repubblica, nelle indagini spunta il venerabile Licio Gelli. Air Italy, la compagnia aerea, va in liquidazione, i voli assicurati solo fino al 25 febbraio. Natalità, l'Italia al minimo storico, meno 116.000 residenti in un anno. Formula 1, la nuova Ferrari si chiama SF1000, il suo colore è rosso scuro opaco. Partiamo quindi dagli sviluppi sul coronavirus. Appunto, abbiamo un nome, è Covid-19, questo l'ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in un aggiornamento con la stampa a Ginevra. We now have a name for the disease. It is COVID-19. CO stands for corona, you know. VI stands for virus, D for disease, so COVID. Corona, virus e disease, cioè malattia, nasce da queste tre parole: Covid-19, il nome ufficiale dato al virus che sta spaventando il mondo. Rappresenta uno standard utilizzabile da tutti, ha spiegato presentandolo il direttore generale dell'OMS, l'etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, che a Ginevra ha parlato in conferenza stampa. Il primo vaccino potrebbe essere pronto in 18 mesi, ma se investiamo adesso, aggiunto, abbiamo una possibilità realistica di fermare l'epidemia. Il tempismo è fondamentale. A virus can have more powerful consequences than any terrorist action. Questo virus può creare conseguenze peggiori di un attacco terroristico, ha avvertito Ghebreyesus. Il mondo deve stare unito, svegliarsi e considerare il Covid-19 il nemico pubblico numero uno. Ed è al lavoro perché l'Unione Europea si muova all'unisono nella lotta al coronavirus il nostro ministro della Salute, Roberto Speranza. Il 13 febbraio i ministri della Salute dell'Unione Europea, su mia richiesta, si riuniranno in via straordinaria a Bruxelles. Di fronte ad un rischio globale, l'Europa è chiamata a lavorare insieme. Il ministro Speranza ha ribadito che non ci sono allo stato elementi tali da giustificare una sospensione dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Quanto ai timori legati all'Africa, lì non ci sono casi confermati, come certifica l'OMS, ha dichiarato, assicurando però il monitoraggio continuo della situazione per la posizione geografica del nostro paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra poco, vi dicevo, ci torniamo con uno dei massimi virologi in Italia e poi con un docente di economia politica che ha fatto un calcolo sulla effettiva letalità di questo virus. Passiamo intanto però alla politica italiana. Continua lo scontro sul tema della prescrizione. Conte cerca di allentare la tensione accelerando su un disegno di legge del governo, appunto, sulla prescrizione, da approvare nel Consiglio dei Ministri di giovedì, con la riforma riforma del processo penale, un rinvio dello scontro nella maggioranza con la scelta di non inserire invece il lodo Conte bis nel decreto mille proroghe. In serata poi c'è stato il no del governo all'emendamento di Italia Viva, ma la Lega lo ha firmato. Il ministro della giustizia Bonafede ha detto non ci sarà nessuna sponda con chi alza i toni. Il segretario del PD Zingaretti attacca i renziani definendo l'ipotesi di una sfiducia a Bonafede un insopportabile teatrino e chiamandoli estremisti. Renzi lo accusa di inseguire i grillini sul giustizialismo. Insomma, vedete, veramente un clima assai disteso. Poi ci torniamo. Una svolta adesso sulla strage di Bologna. Flussi di denaro per alcuni milioni di dollari movimentati attraverso varie complesse operazioni partiti da conti riconducibili a Licio Gelli e Umberto Ortolani, alla fine destinati indirettamente al gruppo dei NAR e a coloro che sono indicati come gli organizzatori della strage. Il giro di denaro è stato ricostruito dall'indagine della Guardia di Finanza di Bologna nell'ambito dell'inchiesta della Procura Generale sulla strage del 2 agosto 1980. Un legale delle vittime ha detto l'ipotizzato concorso in strage di Gelli e Ortolani è una novità assoluta. Questo processo può cambiare la storia di questo paese. Ci sarà poi modo nel corso di questa puntata di avere altri importanti dettagli. E siamo al fallimento di Air Italy. In una lettera indirizzata ai dipendenti della compagnia aerea, il presidente di Air Italy, Roberto Spada, scrive: per motivi di sicurezza e a tutela sia degli equipaggi che di tutti i passeggeri, a partire da oggi è in atto il fermo tecnico dei voli. È in corso di attuazione un piano volto alla riprotezione dei passeggeri. È stata senza dubbio una scelta difficile presa congiuntamente dagli azionisti. Per motivi di sicurezza e a tutela sia degli equipaggi sia di tutti i passeggeri, a partire da oggi è in atto il fermo tecnico dei voli. È in corso di attuazione un piano per la riprotezione dei passeggeri. Così il presidente di Air Italy, Roberto Spada, ha comunicato in una lettera ai dipendenti la messa in liquidazione della società, decisa all'unanimità dagli azionisti Alisarda e Qatar Airways durante un'assemblea durata 25 minuti. Una scelta dettata dalle persistenti strutturali condizioni di difficoltà del mercato, spiegano i soci. I passeggeri con voli fino al 25 febbraio saranno così riprotetti su voli di altre compagnie. Poi per gli altri è invece prevista la riprotezione o il rimborso del biglietto. A rischio ci sono 1200 posti di lavoro, 500 dei quali in Sardegna. I primi segnali allarmanti erano emersi con la perdita di 164 milioni di euro nel 2018. La decisione di liquidare una società così grande senza informare il governo è inaccettabile, dice il ministro dei trasporti Paola De Micheli. I sindacati sono pronti a mobilitarsi per difendere i lavoratori, mentre i deputati sardi del PD chiedono al governo di intervenire per scongiurare il disastro economico e l'opposizione chiede all'esecutivo di riferire in aula. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A proposito di aerei, parte male il 2020 del colosso aeronautico americano Boeing, con una debacle a gennaio, mese in cui ha fatto registrare zero ordini e solo 13 consegne di aerei, mentre continua l'incertezza su quando il 737 MAX, il modello coinvolto in due disastri, potrà riprendere il volo. In gennaio invece l'europea Airbus ha piazzato 274 ordini. Parliamo di denatalità per quanto riguarda il nostro paese. Nascite al minimo storico, nel 2019 sono state 435.000, il dato più basso mai riscontrato nella storia del paese. Lo riferisce l'Istat nell'annuale rapporto sugli indici demografici. La popolazione continua a diminuire, 60 milioni e 317 mila abitanti, 116 mila in meno rispetto all'anno scorso. Il ricambio naturale è il più basso degli ultimi 102 anni. Per ogni 100 residenti che muoiono nascono solo 67 bambini, 10 anni fa erano 96. La conferma di una tendenza in atto da anni, sottolinea il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo al microfono di Maria Luisa Pezzali. L'aspetto più significativo è che questo scarso flusso di ingresso legato appunto alle nuove generazioni e naturalmente un altro elemento che peraltro è positivo, cioè l'allungamento della sopravvivenza, unitamente al fatto che rimangono nel paese, rimangono in vita popolazioni che provengono da tempi in cui le nascite erano veramente alte, questo fa sì che la popolazione complessivamente invecchi, nel senso che la componente anziana sia via via, ma anche molto anziana, sia via via crescente. Questo di per sé non è un problema, diventa un problema se non ha un'adeguata compensazione rispetto alla dimensione delle altre classi. Ecco che naturalmente nascono evidentemente dei problemi di equilibrio, soprattutto dal punto di vista del welfare, le pensioni, la sanità e se vogliamo anche il clima generale del paese da altri punti di vista, politico, culturale, di dinamismo, di investimento nel futuro e così via. Parliamo adesso delle notizie dall'estero. L'ex leader del Sudan, Omar al-Bashir, sarà consegnato alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Lo ha affermato il Consiglio Militare del paese, citato dalla BBC. Bashir è accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, anche se ha sempre negato questi reati. Lo scorso dicembre l'ex presidente del Sudan, destituito in aprile 2019 con un golpe, è stato condannato per corruzione a 2 anni da scontare in una struttura di riforma sociale. Scusate, continua nel nord-ovest della Siria intanto l'esodo dei civili in fuga verso la frontiera turca dai bombardamenti governativi e russi a Idlib. Altre 27.000 persone si sono aggiunte negli ultimi 4 giorni e convogli di sfollati diretti verso nord e ovest, secondo le informazioni fornite dal Coordinamento per la risposta alle operazioni in Siria, organizzazione vicina ad Ankara, citate da Anadolu. I profughi si dirigono verso le zone passate sotto il controllo turco con le operazioni militari Scudo dell'Eufrate e Ramoscello d'Ulivo. Di noi in Italia con la cronaca, 38 arresti e beni sequestrati per 15 milioni di euro nella maxi operazione eseguita questa mattina dai carabinieri di Roma. A capo della banda Salvatore Nicitra, re delle slot machine. Boss della banda della Magliana negli anni 80, Salvatore Nicitra, 63 anni, era ancora uno degli uomini chiave della criminalità organizzata della capitale, ha spiegato il procuratore di Roma Michele Prestipino. Nicitra era il re del gioco d'azzardo nella zona nord-ovest di Roma, un impero costruito con intimidazioni e minacce, ma sempre sfuggito alle accuse più gravi. Posso mettere le macchinette dove voglio, dice in una intercettazione, ormai non devo più spacciare droga e usare la violenza. Dopo Mafia Capitale però il cerchio si stringe, dal 2018 è in carcere per estorsione per un ruolo di mediatore tra clan e ora arrivano i 38 arresti eseguiti dai carabinieri a carico della compagna Chantal e degli uomini della sua organizzazione. Avrebbero gestito quasi tutto il giro di slot machine legali e illegali di Roma Nord, sequestrati beni e ristoranti per 15 milioni di euro. L'indagine ha scoperto inoltre il ruolo di Nicitra come mandante di 4 omicidi degli anni 80, casi irrisolti da 30 anni, accuse che se confermate in giudizio potrebbero davvero mettere fine all'impero dell'ex boss della Magliana. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di clima. L'Italia e il Mediterraneo vivranno estati sempre più roventi nei prossimi anni. Le ondate di calore estremo sono destinate a aumentare sempre di più, al punto che entro la fine del secolo potrebbe essere da 4 a 8 volte più alte rispetto al 2010. Un destino che accomuna buona parte di tutto l'emisfero settentrionale, come spiegano sulla rivista Nature Communication i ricercatori dell'Accademia Cinese di Scienze Meteorologiche di Pechino. E tutto questo per il cambiamento climatico e gas serra prodotti dall'uomo. L'aumento delle frequenze e intensità di questi eventi estremi sarà più marcato nell'Europa occidentale e meridionale, con il Mediterraneo, dunque anche in Italia, oltre che nel sud degli Stati Uniti, il sud-est del Canada e della Cina, rileva Marina Baldi, climatologa del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per chiudere lo sport, Formula 1, oggi è stata presentata la nuova Ferrari, si chiama SF1000, il suo colore è rosso scuro opaco, ma poi avrete altri dettagli seguendo naturalmente Effetto Notte. Qui breve pausa per chi si sta muovendo per strade e autostrade e poi insieme con gli ospiti per approfondire vari temi. Per i vostri commenti e riflessioni sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Diego già chiede, Diego da Roma, ma chi ripulisce gli aeroplani che arrivano dalla Cina? In realtà i voli dalla Cina e per la Cina sono bloccati da qualche tempo per quanto riguarda il nostro paese. Comunque tra poco magari ci sarà modo anche di porre questa domanda. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che avete appena sentito, non perdetela in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. Roberta Giordano sempre con voi, sempre più influenzata, ma insomma sempre sul pezzo e naturalmente non posso altro che partire con gli ospiti dalle notizie in primissimo piano, le più importanti da approfondire, da chiarire, anche grazie alle vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte come sempre, oppure 349-238-6666 per quanto riguarda SMS e WhatsApp. Il governo italiano ha scelto la linea di massima precauzione. In questo momento siamo tra i paesi del mondo che ha il più alto livello di attenzione, quindi nessun allarmismo, ma tenere alto il livello di sorveglianza perché la questione va seguita con la massima attenzione. In estrema sintesi, questa è la situazione italiana che è stata espressa oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Insomma, ormai da settimane non posso che naturalmente non aggiornarvi sulle novità che di giorno in giorno, anzi direi di ora in ora, si susseguono sul coronavirus, che da oggi tra l'altro ha un nome. Vi avevo detto nei giorni scorsi che c'era un po' una ricerca in tutto il mondo di un nome proprio da dare a questo coronavirus, in modo da non chiamarlo in modo così generico, e soprattutto che non avesse una connotazione geografica in modo da evitare discriminazioni. Ebbene, il nome emerso oggi è Covid-19, è stato annunciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto riguarda il bilancio, che si aggiorna appunto di giorno in giorno, il numero di infezioni confermate per l'epidemia in Cina è di 42.638 a livello nazionale della Cina. I nuovi decessi per il virus sono 108, 103 nella sola provincia di Hubei, dove appunto c'è il focolaio. Le vittime nella Repubblica Popolare Cinese sono 1016. Ieri abbiamo parlato degli studi sull'incubazione, della permanenza o meno sugli oggetti, insomma abbiamo chiarito alcune cose che circolano. Oggi, a parte il nome, le altre principali novità sono il fatto che appunto è stata superata la quota di 1000 morti nel mondo, per lo più in Cina, diciamo il 99%, e poi le altre notizie importanti sono altre dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto l'OMS, l'OMS ha detto: il virus è una minaccia peggiore del terrorismo, un virus può creare, ha detto il direttore generale, più sconvolgimenti politici, economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico. Il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno. Chiedo al professor Fabrizio Pregliasco, che è virologo del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, se è d'accordo. Buonasera, bentornato professor Pregliasco. Buonasera, ma è importante istituzionalmente, a livello nazionale e sovranazionale, rimarcare questo problema perché ci sia uno sforzo corale di tamponamento di questa diffusione. È chiaro che lo scenario che ci si pone per dire questo rischio è quello dell'influenza spagnola del 1918, un virus nuovo anche in questo caso, e quindi dove, come oggi, siamo di fronte, e quindi tutti i soggetti nel mondo suscettibili, e quindi una potenzialità di diffusione che all'epoca arrivò al 35-40% della popolazione nell'arco di 2 mesi, quindi una situazione che, al di là della quota di morti, che all'epoca fu anche rilevante, 40 milioni di morti, anche considerando c'era la guerra, non c'era tutto ciò che oggi possiamo mettere a disposizione come terapie complementari e di assistenza, ma davvero il 35% delle persone colpite in poco tempo vuol dire che non ci sono più panettieri, non ci sono più medici anche per curare le altre patologie che comunque ci sono, quindi è una distruzione della vita quotidiana. Questo è lo scenario potenziale da mettere come faro per tutte le iniziative, e lo Stato italiano ha scelto, come dire, l'attenzione più stringente anche rispetto ad altre nazioni. È chiaro che questo è il livello di preoccupazione istituzionale. A livello italiano, ad oggi, magari domani saremo sconfessati, sicuramente ci saranno, secondo me, ancora in questa battaglia, che io spero vinceremo, degli altri caduti, magari dei casi nel nostro paese, e sicuramente una diffusione che è superiore a quella dichiarata, perché ci sono un sacco di soggetti che sicuramente anche nelle prime fasi sono sfuggite, soggetti che non hanno una sintomatologia evidente, quindi ci succede anche in Italia. L'epidemia di morbillo che abbiamo subito, almeno come casi notificati, andando a fare degli studi abbiamo visto, devono essere considerati per 5 per 10. Figuriamoci nel contesto di una patologia tutto sommato sfumata, che anche per loro è iniziata durante il periodo influenzale, così come da noi, e quindi sicuramente bisogna contenerla, perché siamo ancora al 1377. Nel 1377 la Repubblica di Venezia inventò Lazzaretti, inventò all'epoca per facilitare i commerci, non certo per salvare le vite, questa modalità della quarantena. Oggi abbiamo però diagnosi, assistenza, non ancora farmaci del tutto efficaci. E chissà 18 quanto. Mesi ci vorrebbero, ha detto oggi l'Organizzazione come Mondiale della Sanità, per un vaccino, no? Come minimo, esatto, 18 mesi. Esatto, quindi la battaglia deve essere fatta in questa fase, quando l'incendio, come gli incendi, sono ancora piccoli. Si è visto in Australia con l'incendio che hanno subito recentemente, non ce l'hanno fatta a circoscriverlo nelle fasi iniziali, ed è diventato per loro un incendio devastante. Infatti l'OMS, fra le altre cose, ha detto a proposito di tempismo: se investiamo adesso abbiamo una possibilità realistica di fermare questa epidemia, non si può sprecare l'opportunità, non dobbiamo consentire a questo virus di avere spazio. E poi appunto aggiungendo che i tempi potrebbero essere per un vaccino quelli di 18 mesi. Però a proposito della letalità, della tasso di mortalità di questo coronavirus, intanto ci dice a cosa si deve questa sigla, professor Pregliasco? Ma l'avete detto, è diventata una sigla un po' COVID-19, asettica, che vuol dire coronavirus infection disease, cioè coronavirus che determina una malattia infettiva. Evolutamente senza una caratterizzazione. Noi per altri virus invece, per esempio dell'influenza, tipicamente usiamo i luoghi da dove viene, primo isolamento. Qui è stato, considerando anche i guai anche in Italia della stimmate verso la Cina, di usare giustamente, meglio evitare. Quindi, allora, dicevo, SARS, eccetera. A proposito del tasso di mortalità, il professor Luigi Ventura, che saluto, buonasera professore. Buonasera a tutti, grazie. Che è professore di economia politica dell'Università Sapienza di Roma, ha fatto un calcolo abbastanza rassicurante per il momento, professor Ventura, perché lei dice che il tasso di mortalità nel focolaio, proprio lì dove tra l'altro si infettano anche all'interno delle famiglie, diceva oggi questo studio cinese, del 3%. Però già per il resto della Cina è un 4 per mille, così come il resto del mondo, giusto? Esattamente, professore? E tra l'altro, diciamo, volendo fare un'ulteriore distinzione, siccome all'interno del resto del mondo normalmente si inquadra anche Hong Kong, perché la distinzione è fra Cina continentale, no? e Hong Kong, allora se si toglie l'unico decesso di Hong Kong, abbiamo sostanzialmente che in tutto il resto del mondo si scende al 2 per mille. Quindi penso che per, come dire, dare un'idea un po' più realistica del rischio, almeno del rischio attuale, diciamo, rispetto a percezioni di rischio che potrebbero essere percezioni di un rischio molto più elevato, forse va messo in luce come il 2% del quale si parla è una media ponderata appunto di un 3% per la provincia di Hubei, che conta un tre quarti, diciamo, dei casi dichiarati e un 4 per mille circa di tutto il resto del mondo, anche della Cina continentale. Quindi veramente è una tragedia di Hubei questa, è come se fosse un terremoto per il momento, diciamo. È veramente importante fare la distinzione, però mi sembra che effettivamente fino adesso questa distinzione non sia tanto emersa, mi pare. Professor Pregliasco, ha sentito, è d'accordo? No, concordo assolutamente, ma proprio anche perché, come diciamo noi, il denominatore sicuramente è anche inferiore a quello reale. Certo. Dicevo, una quota rilevante di casi non sono stati censiti, e questo è naturale, e quindi la diluizione. Ma come dicevo, lo scenario è sulla quantità, cioè ci sono malattie gravi per singoli soggetti, la meningite, che fa molta, giustamente, paura perché uccide, no, in modo concreto e rapido, e spesso più giovani. Patologie come l'influenza, il morbillo e anche questa malattia, che invece i loro effetti li vediamo su base statistica di una popolazione, no? Per cui è vero, il morbillo all'epoca ce lo siamo fatti tutti, la gran parte di noi è andata bene, però statisticamente quando circolava tanto creava effetti pesanti. Quindi lo scenario, come dicevo, è sempre da vedere in un'ottica di sanità pubblica e di risultato di somma di piccoli effetti su ogni singolo soggetto e dei guai della sommatoria, che diventa imponente nel momento in cui la capacità diffusiva, se non controllata, come dicevo, può arrivare a cifre come nel passato del 35-40%. Quindi una pandemia. Professor Pregliasco, stanno arrivando un sacco di domande, ne faccio giusto alcune da parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Per esempio, chiede questo ascoltatore: cosa significa che un virus muta? Questo coronavirus può mutare fin tanto che viene sperimentato un vaccino o un antidoto? Questo è, in effetti, così come ha fatto questo salto di specie dal pangolino, mi sembra, questa specie di armadillo. Esatto. All'uomo non è detto che, adattandosi bene, si trovi bene, diciamo così, in mezzo a noi, e trovi delle variazioni, delle stabilizzazioni, dei peggioramenti in termini dei suoi effetti. Normalmente i virus, soprattutto quei virus respiratori come il virus influenzale e il coronavirus, sono più furbi e più perfidi, nel senso che i virus come Ebola sono in qualche modo incapaci di diffondersi enormemente perché uccidono troppo il substrato, in questo caso purtroppo per noi l'uomo, e quindi la loro capacità diffusiva è inferiore. Invece, come abbiamo visto in Cina, un po' di raffreddore, un po' di starnuti, però la vita continua. Uguale, come questo inglese che ha ben pensato di arrivare da Shanghai, andare in uno chalet in Francia. Ah sì, questo Walsh che ha seminato il terrore in Gran Bretagna, adesso c'è la psicosi, perché ne ha infettate 11 persone, lui però è guarito, è ancora in convalescenza, ma insomma sta bene. No, l'effetto è poi questo, si sono poi rispetto ad una contagiosità relativamente bassa, quelli che noi chiamiamo super spreader, cioè diffusori, come dire, con una capacità infettante più alta, è sicuramente questo signore che tutto sommato ha girato un'altissima il mondo. Capacità di infettare, bisogna dire. Ha creato un bel partito. Professor Pregliasco, brevemente a questo ascoltatore Diego da Roma che dice: ma chi li pulisce gli aeroplani che arrivano dalla Cina? Ci risulta che da un po' non arrivano più e non partono più per la Cina, no? Per quanto riguarda il nostro paese. Allora, ci sono stati appunto dei lavori l'altro giorno che hanno evidenziato sopravvivenze anche di giorni del virus. Ribadiamo che la carica virale va a ridursi proprio dal momento dell'espulsione, della diffusione nell'ambiente dal corpo, e quindi i residui sono sempre con una concentrazione virale molto bassa e quindi con rischi infettivi limitati. Quindi diciamo che quello che oggi si vede, diciamo stimolati dalla paura, sono l'esigenza di un'attenzione igienica che dovremmo fare ogni momento, e in questo momento in Italia, bisogna ribadirlo sempre, al di là che viene raccontata per il coronavirus, è per l'influenza, per le infezioni respiratorie e anche per le infezioni fecorali, che vedono come dire, possibilità di contagio interumano. Quindi e sicuramente gli aerei, i pullman, gli aerei, i treni hanno o dovrebbero avere dei livelli di igiene prescritti a livello di formalizzazione, c'è una pulizia sufficiente, ritengo, non bisogna a questo punto diventare igienisti ossessivi, perché il livello è, ad oggi nessun oggetto, nessun animale può essere di fatto considerato portatore di questo virus, diciamo trasportatore. Un veicolo come diciamo tecnicamente della malattia. In particolare sulle merci, sentivo da un'intervista oggi appunto che di chi si occupa di navi, per esempio una nave che arriva dalla Cina ci mette 25 giorni, quindi no. A tempo, insomma, nel caso. Professore Fabio da Milano dice: mi risulta che tutti gli ospedali italiani siano state predisposte o in fase di predisposizione aree di quarantena per fronteggiare i numerosi contagi previsti. Vabbè, questa sarà una misura precauzionale, ovviamente. No, ci sono scenari, ecco, noi rispetto al passato, e voglio dire a 100 anni fa, abbiamo subito dei rischi di pandemia, quando abbiamo parlato di aviaria, quando abbiamo parlato di MERS, quando abbiamo parlato di SARS, quando abbiamo parlato anche dell'ultima pandemia che per fortuna non è stata rilevante, anzi è stato elemento di discussione, perché ormai c'è chi è rimasto male che nelle previsioni si pensava fosse una pandemia pesante, ma è stata una pandemia, sembra un po' un gioco di parole, non pesantissima, non rilevante, ma comunque un rischio, e quindi abbiamo pianificato delle procedure, dei sistemi di comunicazione, delle diciamo capacità di reazione che non possono azzerare immediatamente, ma come è stato dimostrato con questi episodi, mitigare l'effetto. Quindi io dico, in questa battaglia siamo, ci saranno attrezzati, altri morti, ci saranno altri casi, ci saranno magari ulteriori casi in Italia, anche secondari, come in alcune nazioni, appunto in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, però io credo che questa battaglia riusciremo a vincerla, questa guerra, anzi battaglie magari le perdiamo, ma la guerra la vinceremo in un arco di tempo non immediato. E direi su questo ottimismo di lasciarci, anche se c'è un ascoltatore tra i tanti che dice: in Italia il rischio è maggiore a causa dell'alta percentuale di anziani, visto i dati dell'Istat, scarsa di natalità, l'Italia che invecchia sempre di più, ma in realtà vedevo dei dati che parlavano di una più maggiore possibilità di infettarsi gli uomini di sesso, insomma il sesso maschile sui 50 anni, quindi all'inizio, ancora di certezza. All'inizio era così, nella casistica iniziale, perché eventualmente i primi esposti erano più maschi, e adesso invece si è su 50-50, insomma, 50-50. Non fa differenza di genere. Va bene, insomma, continuiamo la nostra battaglia. Grazie al professor Fabrizio Pregliasco, grazie al professor Luigi Ventura della Sapienza di Roma. Grazie, buon lavoro, buona continuazione. Pausa di sospensione, di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Una buona serata da Paolo Corazzon di 3B Meteo agli ascoltatori di Radio 24. Tenderà ad attenuarsi il vento nelle prossime ore, venti che oggi hanno ancora soffiato sostenuti in diverse zone dell'Italia. Domani si farà sentire ancora un po' di maestrale al centro-sud, ma in attenuazione, e un po' di vento ancora sulla fascia alpina e prealpina. Però nel complesso domani sarà una giornata abbastanza tranquilla, solo qualche nuvola di passaggio al centro-sud, ma senza particolari conseguenze, e temperature che si mantengono sempre sopra le medie del periodo, anche domani punte massime oltre i 15 gradi. Per finire vi anticipo che giovedì si partirà sì bene, ma a fine giornata perturbazioni in arrivo al nord e sul medio alto Tirreno, perturbazioni che poi venerdì attraverserà il centro-sud. Con questo è tutto, per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi scaricate l'app gratuita di 3B Meteo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, però vi devo anche avvisare che è un programma questo che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano che vi accompagna tutte le sere in questa sfida dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 nel raccontarvi la maggior parte, insomma, delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, da approfondire poi con gli ospiti. Abbiamo scandagliato come tutti i giorni gli sviluppi del coronavirus che da oggi ha un nome, Covid-19. Ne abbiamo parlato col professor Pregliasco e col professore della Sapienza che ci ha spiegato quali sono, qual è l'effettivo tasso di mortalità, di letalità fino a questo punto del virus, del coronavirus. Il professor Ventura, Luigi Ventura della Sapienza di Roma. Adesso invece ci spostiamo, vedo ancora tante vostre domande sulla pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666, non riesco quindi a esaurirle tutte, però adesso ci concentriamo invece sulla politica domestica. Dico basta con questo tormentone sulla prescrizione che sta facendo perdere all'Italia troppo tempo, perché se c'è la volontà politica la soluzione è a portata di mano. La priorità per l'Italia sono altre, sono accendere l'economia, sbloccare gli investimenti, pensare alla scuola, rilanciare nuove appunto politiche per il lavoro, per la casa che gli italiani si aspettano. In effetti, diciamolo, è un vero tormentone questo infinito dibattito sul tema della prescrizione, cioè la data di scadenza di un processo che tormenta noi, questo tormentone, ma tormenta anche la maggioranza di governo che tiene piuttosto in bilico, insomma. Oggi poi vigilia politicamente importante perché domani il Senato vota sull'autorizzazione o meno al processo per il leader della Lega Matteo Salvini a proposito sempre del caso della nave Gregoretti. Ma tormentiamoci prima con la prescrizione. Carabetta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani. Carabetta. Buonasera radioascoltatori. Prescrizione sì, prescrizione no. Guarda, anche oggi io, a parte stare dietro tutti gli aggiornamenti coronavirus, ma mi è più difficile stare dietro agli aggiornamenti della prescrizione addirittura. Sì, perché guarda, susseguono. Non ce la faccio più. Vogliamo intanto sentire Vito Crimi che cosa ha detto, perché diciamo, allora, il nodo sta soprattutto tra PD e Movimento 5 Stelle da una parte e Italia Viva dall'altra di Renzi. Renzi che continua a dire, io la prescrizione così anche com'è il lodo Conte che dovrebbe essere una mediazione, non ci interessa, non la vogliamo, siete dei giustizialisti, non vogliamo far cadere il governo, però intanto da due giorni minaccia la sfiducia al ministro della giustizia Bonafede. Sentiamo cosa risponde Vito Crimi, attuale reggente del movimento. L'atteggiamento di Italia Viva è un atteggiamento che non comprendiamo se sta facendo l'opposizione al posto di Salvini, Meloni e Berlusconi. In ogni caso, se vuol fare qualcosa per gli italiani deve mettersi a lavorare con noi per la riforma del processo penale, per ridurre i tempi. A parte il fatto, poi la cosa si complica ulteriormente perché questa legge sulla prescrizione, che è in vigore dall'inizio di gennaio, l'aveva votata il Movimento 5 Stelle con la Lega nel precedente governo, nel Conte 1, Lega che adesso invece con l'opposizione vuole buttare giù. Betta, aiutaci tu. Allora, intanto dobbiamo dire che siccome si stava litigando e litigando ferocemente, cioè Italia Viva stava litigando con tutto il resto della maggioranza, il premier Giuseppe Conte, in accordo con il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha deciso di non mettere nel milleproroghe con un emendamento il cosiddetto lodo Conte bis, cioè un ammorbidimento dello stop alla prescrizione. Avrà lo stop solo se si è condannati in primo grado, di non mettere questo in un emendamento al milleproroghe, perché Italia Viva contestava proprio che un aspetto così importante della giustizia come lo stop alla prescrizione possa essere collegato con un emendamento a un decreto legge che contiene un po' tutto. Ricordiamo che il milleproroghe è un decreto che contiene le cose più disparate che il governo non è riuscito a fare. Allora in questo Italia Viva ha avuto un successo, perché il governo ha pensato di lasciare stare l'emendamento al milleproroghe ma anche il decreto legge, e di invece proporre un disegno di legge più strutturato, quindi con anche la riforma del processo penale. Quindi si allungano i tempi perché non è più un decreto, quindi non è più un provvedimento d'urgenza, ma di necessità e d'urgenza, ma è un disegno di legge, e quindi va ragionato, fa il suo iter in Parlamento, viene approvato, può essere comunque discusso con tempi più lunghi, perché sappiamo che il decreto invece deve essere poi convertito in legge in tempi ben stabiliti, e quindi questa è una vittoria di Italia Viva. Quindi non si va allo scontro con Italia Viva, però Italia Viva continua ad andare allo scontro con il governo. Noi non ritiriamo il lodo Annibali, che è una parlamentare di Italia Viva, che vorrebbe rimandare al prossimo anno, mi pare, questo dibattito sulla prescrizione. L'entrata in vigore della riforma Bonafede. Però sentiamo Bonafede. Bonafede che cosa ha detto? Sentiamo. Ciascuno è libero di fare quello che vuole, compreso anche di decidere se stare in maggioranza o all'opposizione. Io da parte mia continuo il mio lavoro, sto lavorando sulla riforma del processo penale, che è quello che interessa ai cittadini, perché i cittadini, come ho detto tante volte, vogliono un processo penale che dia una risposta di giustizia certa e in tempi brevi. E Zingaretti, segretario del PD, ha detto: ma insomma, Renzi in questo modo fa più piacere a Salvini, all'opposizione, che non davvero cercare di sostenere il governo. Troviamo un modo di confrontarci. E Renzi ha risposto così questa sera al TG5. In realtà è che Zingaretti è un po' imbarazzato, e poverino, va anche capito, perché la storia del PD è una storia di garantismo, di riformismo. Ora, su questa vicenda Zingaretti si è messo a inseguire i grillini, si è messo a fare ciò che abbiamo sempre combattuto, il giustizialista. Allora capisco il suo imbarazzo, ma non per questo apro polemiche con Zingaretti. Credo che il PD sbagli a inseguire i grillini andrebbero ridimensionati con il loro pericoloso populismo giudiziario, però se Zingaretti vuole inseguire i grillini, contento lui, contenti tutti. Insomma, abbiamo capito che il tema della prescrizione non è andato ancora in prescrizione, ci sarà ancora tempo per procedere. Poi dicevo, Betta, domani si vota sul caso Gregoretti, sull'autorizzazione o meno di mandare a processo Salvini. Salvini, che all'inizio diceva è una cosa indegna, vergognosa, eccetera, mandarmi a processo, ora ha chiesto di nuovo ufficialmente, come nei giorni scorsi, ai suoi di votare domani al Senato per l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Ecco, la cosa qui va detta, perché sembra proprio un controsenso, no? Lui ha detto: io mi voglio assolutamente sottoporre qui c'è un calcolo, probabilmente lui dice perché voglio vedere chi ha il coraggio di condannarmi, io ho fatto tutto questo per il bene del paese, però è anche un diciamolo, potrebbe essere anche un bellissimo spazio spot elettorale per Salvini, quindi sai. Però Betta, parliamo insomma di numeri per chiudere. Se anche tutta la Lega votasse per l'autorizzazione a procedere come gli ha chiesto Salvini e la maggioranza votasse anch'essa a favore, mentre l'opposizione, Forza Italia e Meloni, quindi Fratelli d'Italia, votassero per la non autorizzazione, insomma, come andrebbe in questo caso, anche se tutti gli uomini e le donne di Salvini votassero per portarlo a processo come lui chiede, passerebbe no, questa i numeri, cosa? Certo, i numeri sono netti in giunta, ecco. E quindi è chiaro che passerebbe sicuramente la linea di Salvini e a quel punto lui andrà a processo, probabilmente sarà così. E poi si vedrà, l'ultima si vedrà volta c'è sì stata in un po' di impiccio, no? Perché c'erano i voti, poi hanno votato i presidenti. Vediamo, è sempre un mistero perché si vota in giunta. Lo sveleremo domani. No, si è votato in giunta, al Senato invece in aula, come domani, i numeri sono abbastanza netti. Insomma, quindi chiaro, chiaramente la maggioranza c'è. In più, se pure la Lega vota con la maggioranza, l'autorizzazione ci sarà. A domani allora, grazie cara Betta Fiorito. Ciao, ciao Betta, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, adesso per passare anche questa notizia importantissima. Sono novità molto importanti sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980, a 40 anni dall'attentato più sanguinario della storia della Repubblica. Ci furono 85 morti e 200 feriti, feriti anche molto molto gravi. Spunta dietro questa strage il venerabile Licio Gelli e la sua loggia massonica P2, ma anche apparati deviati dello Stato, perché ne sono convinti i magistrati della Procura Generale di Bologna. Il perché in sintesi ce lo spiega il nostro Ivan Cimarrusti del Sole 24 Ore. Ivan. Buonasera, buonasera a tutti. Addirittura i legali delle vittime dicono che questa cosa potrebbe cambiare la storia del nostro paese. Beh Roberta, effettivamente è vero, e tra l'altro gli avvocati delle vittime hanno avuto un ruolo determinante nella risoluzione, anzi nella scoperta che dietro quella violenta strage efferata degli anni Ottanta, quindi l'epilogo diciamo degli anni di piombo, si nascondeva la P2 e apparati deviati dello Stato. Dico questo degli avvocati difensori perché sono stati loro che, scavando nei documenti di un'altra celebre inchiesta giudiziaria degli anni 70, quella sul crack del Banco Ambrosiano, hanno trovato un fascicoletto che si chiamava Documento Bologna. Era un appunto che era stato sequestrato a Licio Gelli, quindi come dicevi appunto il capo di questa loggia massonica, la P2, trovato nel 1982, e all'interno hanno trovato movimentazioni economiche dalla Svizzera proprio verso i nuclei armati rivoluzionari, o meglio quelle frange che si ipotizza abbiano poi compiuto esattamente dell'avanguardia nazionale, ecco, che hanno compiuto la strage. C'è Walter che dice: sono basito nel sentire la verità giudiziaria sulla strage della stazione di Bologna, praticamente un tentativo di golpe singolare, ma non troppo il coinvolgimento di corpi dello Stato come il SISD. Guarda caso, dice, ormai citati protagonisti, naturalmente in primis Licio Gelli, sono tutti morti, un'altra verità che salta fuori sempre tardi. In effetti è sconfortante che se ne parli dopo 40 anni, no, Ivan, però è anche affascinante, diciamo così, se posso usare questo termine, che nonostante siano passati tanti anni qualcosa poi di nuovo si può trovare verso la via della verità, almeno. Sì, è vero, la tua è una lettura corretta, è sconfortante perché scopriamo che un direttore dell'ufficio affari riservati del Viminale, quindi del Ministero dell'Interno, era Federico Umberto D'Amato, anche lui scomparso, morto, era coinvolto in tutta un'operazione di depistaggi. È sconfortante ancora perché apparati del SISD, del servizio segreto, quello che dovrebbe vigilare, all'epoca era proprio vigilava sulla l'Italia repubblicana, era deviato, quindi aveva manipolato l'informazione servendosi anche di un giornalista, Mario Tedeschi, che poi veicolava informazioni fasulle sulla stampa. Viene fuori uno scenario che poi, se vogliamo, è anche un po' romanzesco, se vogliamo, perché vediamo appunto questi apparati dello Stato e della stampa che avevano praticamente inventato tutta una storia per celare la verità della strage di Bologna. Insomma, ombre scurissime su tanti fatti della nostra storia, purtroppo. Ivan, comunque adesso è partita questa inchiesta in questo senso, con questa quella che sembra una svolta, sì. Proseguirà e capiremo più in là, più insomma, che strada prende. Sì. Più che inchiesta, volevo puntualizzare, è una notifica di avviso di conclusione delle indagini preliminari. Questo è sostanzialmente un atto che prelude alla successiva richiesta di rinvio a giudizio. E partiamo dal presupposto che gli ideatori della strage sono tutti morti. Quindi alla sbarra degli imputati andranno soltanto alcune persone, molti dei quali ultra novantenni. Insomma. Comunque già servissi a sapere qualcosa in più per le tante famiglie di tanti morti innocenti che ci furono in quella strage terribile. Insomma, già questo sarebbe un punto in più. Grazie Ivan Cimarrusti intanto. Grazie a voi. Ciao Ivan. Buonasera. Ciao, buona serata. Adesso il nostro Dario Ricci ci presenta la nuova Ferrari, è vero Dario? Eh beh sì, rimarrei in Emilia, ci spostiamo di qualche chilometro, Maranello, ma soprattutto oggi Reggio Emilia, culla di quel tricolore che la Ferrari ha fatto proprio da sempre, direi, perché la Ferrari è la nostra nazionale dei motori. Oggi è presentata la SF1000, la nuova vettura che andrà a caccia di quel mondiale che a Maranello tra i piloti manca dal 2007 e tra i costruttori dal 2008. 1000 perché Roberta, come sai, quest'anno la Ferrari taglierà un traguardo importantissimo, quello dei 1000 Gran Premi di Formula 1. Ecco perché il nome SF1000. Esattamente, sì, è l'unica scuderia sempre presente fin dalla prima edizione nel campionato di Formula 1, grande rivale chiaramente ancora una volta alla Mercedes di Lewis Hamilton. Abbiamo vinto tanto nella nostra storia, ha detto il presidente Elkann, ma c'è ancora tanta fame di vittorie qui a Maranello, e non potrebbe essere altrimenti, visto che appunto gli ultimi anni hanno avuto il colore argentato della Mercedes. Quindi staremo a vedere. Mentre il colore, insomma, di questa Ferrari, rosso cupo, mi pare di aver capito? Sì. No, speriamo, è un rosso un pochino più, sì, un pochino più caldo rispetto all'ultimo, cosa che non dispiace, visto che poi l'ultima doveva essere vincente, non lo è stata. Magari cominciamo a cambiare il colore e forse cambiamo anche il segno finale del mondiale. Dai. Vediamo se possa bastare. Grazie caro Dario Ricci. Grazie, ciao Dario. E va come il turbo, anch'io mi avvicino ratta come la folgore alle 22 per aggiornarvi tra pochissimo.